fuoco, io non riesco più ad entrarci, capito? Poi sopra ti dovrebbe comparire il blocco, schiaccia col passo destro e fai blocco pop up e lo togli. Ho capito, e dopo ci provo se ci riesco, se lo faccio. Siccome io lo so usare, allora lì se vuoi approfittare, dai, perché lì avevo fatto anche la scuola, poi invece lavoro con computer, che lo usa benissimo. Allora quando fa entrare il virus, perché dice che quando entri dentro quel sito entra il virus, ma cosa virus che non sono quelli, che sono altre cose. Sì, allora l'ho fatto, mi ha saputo che mi ho fatto un po' sul blocco, io vado ad aprire quel sito lì e non me lo apre più, tutto il resto lo faccio, ma quel sito non me lo apre più, sta famosa, vabbè, non fa niente, vedremo di imparare un po' di più e così almeno me lo frego. Avanti Luca. Ti ha messo il blocco a testo Giulia, ma si può? No, se può, vabbè, che ci vogliamo fare? Andare a te Antonio, fai girare. Oh Giulio, sai cosa puoi fare anche? Provare a entrare nelle proprietà di Internet Explorer e controllare a vedere se l'ha messo nella lista dei siti con restrizioni. Entrare nella, non che non ho capito bene cosa ti ha detto, ripeti. Bene te l'arrabbiate. No, ma quello è certo, con la forchetta e ti posso garantire che mi sento bene. Ma non ti apri forte, devo essere giù. Guardate dove ci sono siti. Protezione, siti, quello rosso, l'ultimo, siti attendibili. Guarda, vedi se nella lista e nello togli da quella lista lì. Sì, ragazzi, dopo ci provo, va, dopo. Dopo ti provo, adesso non ce l'ho qui davanti, è giù nel salone, dunque non posso accedere. Anzi, penso che ci sia anche mia moglie al grosso al computer in questo momento. Okay, no, va bene, grazie del consiglio qua. E beh, anche Paolo ancora al computer, o a tu? Guarda la vita della peggia. Kappa kappa, si è ancora computer. Ciao Cla. Ciao a tutti. Certo, non sarà. Ma volevo dire, c'era qualcun altro sotto che voleva entrare, non ho capito chi era. Avanti, chi vuole entrare? Oh, sarà stata propagazione, non lo so. Arrivava a tre qua, no, non so chi sia. Ciao Giulio, ciao Luca, ciao Claudio, poi siamo per me la parte marciniano, Massimiliano era tu. Ciao Massimiliano, buon bianco. Ciao Cla, buonasera, avanti. Fate le sue colpite. Cappa. Ciao Massimiliano, sei tu, perché non passaggio l'ho copiato bene. Ciao, ci sentiamo alle prossime. Avanti Giulio. Ok, io sento perché devo uscire. Ci sentiamo. Ciao Massimiliano, ciao ciao, ciao qua, non è entrato. Troppo tardi non è entrato, io non ne sto andando, sto uscendo adesso. Vabbè, ci sentiamo la prossima volta, pazienza. Ciao qua, ci sentiamo. Ciao Luca e Antonio. Adesso faccio un giro, ci sentiamo alle prossime, vedo che tra caldo in caldo, allora ci saluto io di nuovo. Alla prossima, ripeti qua. Ciao al computer, ciao Giulio, ciao a tutti. Ciao Giulio, ci sentiamo, buonasera, ciao. Ciao ciao Giulio, ci sentiamo, buona serata, siamo alle prossime. Ciao Giulio, ciao Toni, buona passeggiata, ci sentiamo alle prossime. Com'è fra quel sito che stavi dicendo? Come quel sito, in che senso? Cosa? Non ho capito cosa hai detto. Ho detto, quel sito che hai detto, come si chiama? www.arisasari.it www. Allora. Poi. Arisasari.it. Ari Sassari, così. Ari, Ari, A, R, I, A, R, I, A. punto di punto. Ari, Zaffari, punto di punto. Ah beh, qualche giorno fa si deve usare, dai. Sì, poco al mio giorno. Tutti famiglia di guardi, c'è il buon, ciao. Ormai, ok. Politico uscito da Saletta, la vera non cos'è che fai? Politico ucciso da Salento, l'avevano minacciato. A tutti la ammazzata. Cosa vuoi prendere? La politica c'è da bene. Vai a pagare i siti interessanti, la sua politica. Sì, come la metà siti laggiù, è sempre il computer. Ma perché non funziona? Non ne hai di penna? No, ne ho troppo la linea. Fatti a 10 euro fatti, poi mi diranno 8, ma che cosa? Sì, mi rimanga qui di fare a 10 euro, non posso altro. Poi io già ne vado tutti, poi vado di lui. E già, adesso vediamo, qualcosa la faremo. A 10 euro ci vuole, certo, a 10 euro, vado a lui, vuol dire di... Comando tutto la DSL, senza DSL, poi tre fatti i conti, 100 ore al mese, 2 ore, 3 ore e 10 minuti al giorno lo puoi tenere acceso il computer, o quello che ti hanno fatto, che ti hanno mandato la telecom. Stavo guardando, sono 3 ore e 10 minuti al giorno, poi guardare, no. Lo so, da, al momento non posso fare. Non posso fare quello che... Non ci sono soldini. Ma se vediamo un po' di darci male qualche soldino, metto da parte, quelli metto da parte e via. E mi faccio chiamo, telefono e via, faccio fare nome di mamma. Ah, puoi fare nome che ti piace, l'importante è che si faccia. Perché con il telefonino non serve niente. Ora sotto il vero, capito? Ora sotto il vero. La grande fottitura, perché 30 euro al mese, 100 ore di navigazione, se non va bene la vergogna. Ti pago 32 euro al mese, 24, con tutti i dati a livello mondiale, tutta la DSL completa, tutto. Quindi, vabbè, fai come vuoi. Avanti break, io sono un attimo in correction, l'hai fatto 5 minuti fa. Salutoni, ben sentito, buonasera. Avanti tu. Media, piccolo. Ciao Mauro. Ciao. Oh Franco, se mi compri, ti volevo chiedere se mi va bene a farmi una coppia di... Di? Spilling, please. Sì, che ce l'ho, dipende dal modello. C'è problema. Soldi ne hai. Attimo di bianco, riprendo fra un po', dai. Ah, ciò, va bene anche un assegno. C'è problema. Sono un amor, ma un amor. Cappa Mauro, bevi anche al posto mio, se sta a cuocere ti promi. Un momento, un freddo, attentino, allucinante. Sì, guarda, io sono nella tua città. Rotatore, sì. Certamente che sì, a posto il loco. Non ce l'hai freddo, Mauro? No, proprio per niente, guarda, c'è un medicino, non lo lascerò io oggi, ma democratico aperto, sentine aperto mio. Mamma riprendete la regola. K, controllo. Vabbè. Si sente la radio lui. Mettiamo il sotto. Sì. Se lui ci ha scatenato. Sì, la salva. Aspetta che vado a vedere se mi ha asciugato il muretto. Certo. Che silenzio che c'è, non lui? Che silenzio che c'è? C'è un filo di QRM adesso, bellissimo. Dove lasciamo la giornata? Meglio così. Così ne approfitto, ma in attimo mi assalisce di nuovo, mi entra di un altro po' di erba. Come lei arriva a te? Sì, tu, un bel. E se non sta, non so se è bloccato la mano. Sì, piano piano, vado in piedi che mi metto fretta, ma fotti nulla a me. Tanto i baracci lì, per il momento non passa. Un dice spogliatore in chi va a stare qua. Ma me ne mancava pochi metri, eh. Poi mi pulisco gli alberi bene. Siamo ritagliati blu e erba, un bel. Perciò non è che sia. E poi di vista va maledetta, mamma mia. Mi ha segundo, cazzo di più, dopo che lo spago. No, da me invece è il brutto che dopo che si solleva il sole appena escono quel cavolo di papatta, ci mi fanno un beffo ogni volta. Nonostante sono coperto, perché io mi copro. Cosa ti devi coprire? Ma sono troppi, Lu, sono troppi. Sembrano. Sono allucinanti, sono un bel. Non so, papà faccio, ma appunto l'anno scorso a me, cazzo, mamma mia, ha fatto un bel male. E a me, ciao Luca, fai sentire la campanella? Sentita? No. Fai sentire la campanella a Luca, sì? Fai sentire la campanella a Luca, saluta Luca. Non abbaia i cugani, bravo. Non morì io. Fai due. Sei lui che va a contrarmi il muro. Guarda, c'è un bambino. Sono 4 mesi, sono 4.000. più la liquidazione del cassedile. Parla le campane. Parla le campane. Luca, stai zitto che sovramoduli le campane. Che campane? Ma si imbianco. Campane non mi dice no. Vorrei avere del cuore macolato. Ah, le campane, sì, no, cappuccini. Cappuccini, si sentono. No. Ma le sento anche io, caro strano. L'altra stanza, hai pulito tutto. Sì, adesso sono quelle, queste qua, vicino a me. Se smettono queste, iniziamo le altre. Busa da usare su se mi hanno preparato i soldi, fa piace. Ho capito. Quella signora piano di sopra se mi ha conservato i soldi. Ma chi? Ma dischetta usai? Sì, dischetta e cose. Ma che usai sei andato? Ehi, sono passato, ma vicino c'era il figlio. Lei era in ospedale questi mesi. Aspetta, già da me la buscia. Vieni. Caricare. Ma si credo non riusciva a collegare il coso, il ma il coso, ma per Skype, per vedere i programmi. C'è la salitura, abbiamo collegato il video. L'abbiamo collegato, adesso non ce l'ha più. Non c'è neanche più la parola del terrazzo. Eh beh, se sono così veloci pagando. Vittù, qua conviene fare volta finito il lavoro si per pagare. Per entrare il lavoro signora ci vuole tutto, ve la faccio? Sì, sì, va bene. E tu bene via. Solo viene fare, è semplice, no? No, ma non ammette, non c'è nessun problema di questa, che se sentite male, finita all'ospedale, il figlio, il nipote, io ho una signora 1600 euro, ce li ha da cambiare, discorsi del genere, insomma, per carità. Tu vai che te li dà, te li dà. Te li dà, no, non c'è problema. Sai quante volte io andavo alla macchina, ne avevo mai un po' in più. Tanto cioè non, poi mangiamo poco e non ne mangiamo chissà quanto, e quelle che rimanevano me le vendevo, le portavo lì, le vuole, cosa cucinare, quanto? Un euro, ma io li bisogno a usci, arrivo? No, e lui dice grazie. Beh. Io non le posso dare, un po' di macchie belle, mi trovo, ma che... Quante volte le mia mamma le ha fatte 80 e la mia mamma ha detto erano care, le pagava di meno lì. Sai cosa ha regalo uno? Poi non ha cosa regalo, ma io vabbè. Le potevi vendere a 15 centesimi, già mangiate, così non spendeva soldi a cucinare. No, anche se le vendevo a 2 euro la già cucinate. No, no, a 15 centesimi la buccia, già mangiati, dice, ma che buccia? Beh, risparmia perché non le deve cucinare, quindi risparmia un sacco di soldi. Una volta l'ho speso, ho chiamato, non mi ricordo per cosa. Non mi ricordo che cavolo avevo fatto. Ho fatto su delle sigarette. Stavo a un attimo, quindi questi 5 euro, poi non ti ho lo ritiro, quindi dopo domani ti do gli altri, tu qui ci hai. Perché come tu hai detto a me, ci dovevi salire. Vabbè, siccome, vabbè, non, ma, non sai, cosa non piace una presa, mi diceva sempre, lì c'è l'antenna del terrazzo, l'antenna mia è sul tetto, mi fa impossibile che io la disturbi. Dice, mi sentiva dentro la TV. Quello non c'entra niente l'antenna, sta entrando direttamente sul televisore. E lì c'era mettere una bobinetta di blocco di RF, un condensatorino di fuga a mazzo, il solito filtro LC, e il caso era risolto. Lavoro i 2 minuti. Vediamo come la utilizza. Poi c'era la ragazza del figlio, adesso non c'è più. Io stavo parlando, quando mi ha trovato Luca, così così, io ho un coso, si chiama un patato. E sento tutto quello che dici, sto gustando. Quello era un catattù di quei catattù di 13. Quindi ho detto, ah, io non ci posso fare niente, se tu mi senti, no, è colpa mia. Purtroppo non so cantare tu che è di 13. Ma io cosa faccio? Non uso il baracchino, contento a te. E la gente invia a non desideruti, mezzanotte, cartello, non ti guarda tu. Il discorso è semplice, tu non parli e io non ti sento, per caso è risolto. Io non capisco, ma tu prendi la bischietta e non ho mai disturbata, mai. Eppure l'antenna sua era vicina a quella del baracchino, non mi ha mai sentito, chissà perché. Per vari motivi dipende da tante cose, sono tanti fattori, non è che dipende da questo o da quello. Va bene, che sto uscendo, se non si fa tardi. Ciao. Sempre una rottura di scatta con questi cavolo di disturbi. Tu sei a casa. Cosa? Ho detto, come va, sei a casa? Sì, è già posto, sono qua, così. Rilassato, non è che aspettare la giornata dura di lavoro. Grazie ragazzi, ma domani è cominciato il rompimento di scatole. Ciao Gianni! Buonasera! A te vengo lì, te taglio il capo, mia. Guardi cosa ha sopra muduli. No, non sopra muduli. Quello più giù, Poi ti metto la bombetta nel campanello, me lo metto. Oggi Luca era quello andare a pescare, Lo so già. Quando va? Allora dico, come vado tutto, ma vado più. Pure io mi faccio la stessa cosa. Tanto. Adesso mi non è più un posto dove andare. Ci provo lì, se vedo che è buono, ci trovo da solo, anche non c'è problema, tanto io quando vado anche da solo pesco, non è che c'è problema, non mi annoio, se si pesca già non mi annoio. E tanto cosa c'è, non ti fanno pescare, sto chiuso, infatti a me non mi piace andare. No, io manco, ma mi prende male, mi spiace. Anche se si pesca, ma appunto, a me mi piace il mare, perciò non ci vado, non mi interessa. Anche a me non mi piace, mi spiace, la verità. Non mi piace, non mi piace. Preferisco andare dalla roccia al molo. Al molo proprio mi va meglio, perché è tutto pulito, tranquillo, non ti brutti nulla. Fatti per quello. Ma le spese di avere tutta la stessa pura, io già ce l'ho, ma non sono tutti che ce l'hanno. E c'ho gli stivali, c'ho tutto, anche per andare in inverno. Ma cose ci vogliono canne lunghe, un po' l'attrezzatura diversa. E ci sono gli stivali, lo sgabuzzino, quelli lunghi, che ti coprono tutta la gamba, ci sono. Sono più lunghi, come te, non lo so, mio fratello. Ma mia appunti. No, quelli no, a me non piacciono. Io ho quelli che coprono sia dal polpaccio e tutti imbottiti per l'inverno, per non entrare più freddo. Io già adesso vorrei prendere più un attimo. Sei gaffa. Però già ci può andare, dai, a pescare, non è che non si possa andare, ma anche in spiaggia, dice fa luce, ma il bello è anche quello però. Sì, bello, ti sporchi un bel, non è che ti annoi, ti sporchi un bel, sporchi la macchina, ti sporchi tu, sporchi la sacca, i mulinelli, tutto qua. Non è tanto per la sacca, ma i mulinelli se si rovinano con la sabbia è un casino, se trovano gli ingranaggi la sabbia è finito. Aio, andatevene via, avete favitato trufola. Ciao Marchi. Giudente e voi, avete parlato troppo, troppo casotto state facendo. Buonasera a tutti, belli e brutti. Marchisio, Marchisio, gare non si sa, ma prima o poi vedrai si sa barato. Sicuro. Cominciatevi qua, amico, mi facciate fare zitte. Sono fatto le barrai piccola lì. Zitte qua, toccate, zitte, zitte. Se non le avete mai toccato, ma le faccio toccare io. Ecco, ecco, ecco. A voi, voi, voi, voi. Su internet ha messo un annuncio, no? Praticamente cercava ragazze, si curava i denti e cioè... Bella! Ciao Marchisio, buonasera, ben sentito. Buonasera Gianni, ben sentito anche per te. Ma la rifaceva Luca, si curava i denti, dopo cosa rifaceva? Ce la fischiava. E come? Come ce la fischiava? Ah, io andavo a venire. Ce la fischiava, cioè, vieni qua, morino spantanato. Ma Giorgio, due strisce la sai. Vince, vieni qua, che ti faccio toccare il pizzo, vieni. Sto arrivando, dove sei? A casa sono. Oh, yeah, yeah. Antonio, dimmi se il segnale ha cambiato da poco fa adesso. C'è a fondo scala in occhi, non venne più smitter. Il fossero tu, apri un cancelletto. Fortissimo sei, perché non ti passa nessuno in occhi. Non passa nessuno, e poi forse si è aggiornato la Ianna che entra in occhi. Mattia, non basta Antonio, non basta. Ma che ne sia di tu come te? Ma lo so, Guglielmo, di stai. Dillo, dai, dillo, se non c'ho problema io, mi dillo, dillo, dov'è? Ma non voglio dirlo, io non sono qua. Dillo, io non c'ho problemi, non nascondo niente io, guarda, dillo, dillo, via, un numero, tutto, non me la fotti nuda. Tanto è tutto in regola, non vedo da che vola. Vabbè, sto delicatezza, abiti lì a macellare. Va bene, cioè è così. Non so pure dove abita, ma c'è... non so dove sia di preciso, l'ho portata via, però dove c'è sempre quel... non so, forse abita qualche camionista lì in zona, c'è sempre quel trattore lì. Il camion, mi parlo di un camion. Luca, vi siete accavallati con Antonio? Ho detto che abiti, dove c'è lì, c'è un trattore. Che certo c'è un trattore? No Luca, no, non c'è nessun trattore qua. Trattori in questa zona non ce n'è, hai capito? Andate dolce, più giù della chiesa, dai, non c'è da sbagliare. L'antenna mia si vede passando da via Vivaldi, si vede passando da via Le Kennedy, si vede dalla chiesa, si vede dalla VDV, si vede da tutti i passi. Sì, no, trattore intendo lì è camion, lui, o macchi. Trattori non ce ne sono, ma c'ho molti campagnoli lì alla croce. Si chiama trattore stradale. Trattore stradale, capito? No, chi ce l'ha? Più giù di me, più giù sì, che c'è Colombino. Quella via lì, allora, fammi pensare, quella via lì, dai, quella via non c'è la pasticceria, dai. Più giù della pasticceria, la via più giù, no, la pasticceria attuale adesso, perché pasticceria ce ne ho due, una non c'è più. E nella pasticceria ci vedo l'antenna, esatto. Già, giusto. c'è la Marto, ma poi c'è un'altra antenna, ci sono due antenne, io ne ho visto due, poi sono tre o quattro o cinque, non lo so. Quelle sono di Marco, quello è un altro, quello è un radioamatore, era UCB, però adesso è diventato un radioamatore. Più avanti, 100 metri. C'è un po' la tonalità. Bene, bene, bene, bene. Ciao Fabrizio, buonasera. Ciao, ciao a tutti, hai continuato perché sto facendo le posizioni qua al computer, sono in casino, va, vi ascolto. Fabrizio. Lui a chi è che chiama? Gianni? Ehi, a ciao. Come ti sta arrivando il segnale? 9:20, come mai? Come attaccato? Veniale. A quale veniale? Ma la macchina è più forte. Ehi, vabbè, un altro apparecchio. Ehi, già c'ha l'amplificatore da 5.000 watt. A meno. Sì, mi. Mi? Con altre luci mancava, mi? Fuga! Oh, la mia cucina, e fatemi. Sono di macchina. Sono cazzo in genere tu. Aspetta, che tu l'hai visto. Al massimo. Te lo ricordi? Ragazzi, ragazzi, al massimo. Te lo faccio anche qua già. Ciao Fabrizio. Fabrizio computer. Fabrizio ti sta chiamando a Carino, ti sta salutando. Ehi, salutatelo, non sento, l'unico che non sento, sta sento un sacco 9, attorno 9:10, 9:20 sta arrivando Gianni, tutti arrivano forte, solo lui, purtroppo adesso è proprio zona negativa da parte mia per lui. Non è la zona, lui è negativo. Perché è buon comune, lui, ecco perché non arriva. Infatti è l'unico, cazzo, tutti mi arrivati a 9, tutti quanti, 9 più, tu niente, 0 riporto 0. È una tua che non serve, è nata lì. Se qua senti a Marchisio, Fabrizio. E già arriva a fonte, qua arriva a 9:40 Marchisio, siamo vicini lì all'aria, capito? Papparoggio, riprendi già. Lugarie. Dimmi per qua. Il senso hai, no, il senso hai. Ma pure tanto nel segnale, tanto nel sbagliato, mi. Oh, Fabri, chi ci va a cattiva d'Antonio? Hai mai dato segnale 9:20? Non era già, ne ero io, Allora, però cazzo è il tuo segnale. No, non prova a parlare. Ehi, buonanotte, 1:23. No, Gianni lo stava schiacciando, tu Arturo è arrivato 9:10 e lui è arrivato 9:20, parla già. Prova, vedete. Vedi, sei 9:20 Gianni, e voi siete 9, 9:05. Gianni 9:20 vi passa. E confermo, gli ha parlato sopra Pierpaolo. Sapevo che era lui, però tu devi essere tutti, stavo parlando sopra, era Pierpaolo, confermo, non era Gianni, perché Gianni a Pierpaolo passa qua. Adesso piazza l'antenna di Marella. Gianni, parla quando sta parlando Antonio a vedere, facciamo le prove a vedere se passa. Parla Pierpaolo e Gianni, parlate assieme a vedere. Prova a vedere, passa, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parla Antonio. 1, 2, 3. Ti ripeto, non schiacci già, dalla 2 arriva 9, tu 9:20. Adesso parla Antonio, parla tu adesso, insieme a Gianni, a vedere. Aspetta un attimo, io lo sento Fabrizio oggi, non capisco come non mi senta lui. Parla insieme a Antonio. Perché se tuo cuore non ti sente. Aspetta un attimo. Fabrizio, mi ascolti a me adesso? Sì, ti sta chiamando Natalino. Allora tu passi a Pierpaolo, lo schiaccia la grande, arrivi 9:20, lui arriva 9. Parla adesso sotto Antonio a vedere. Antonio parla. Hola, prova a vedere. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, Gianni, gli sento solo la tavolazione, Antonio lo schiacci alla grande, non sento niente. Sento solo la tavolazione già. Io non sono di segnale, Fabri, guarda un po'. Ora. Adesso sei 9:95 quando parli. Comunque. Sì, arriva più forte di Marchisio. Sono contato i compatti perché più basso di già mi sto arrivando. Ah, cazzo, quelli non mi sono 9,50 qua, ci siamo vicini. Appunto. Io sto arrivando, ti arrivo. 9,80, perché 60 gli superi. Via. Quanto ti sto arrivando io? 9,30. Vabbè, riprendi Gianni che... Lo passo. Chiudela. Lo passi. Che abitudini che avete, ma parla... Sì, lo passi. No, non lo so, perché comunque a 30 sono portati a sovramuro all'Antonio. Confermo, tu non ho detto niente, già tanto ti stavo parlando sopra, non ci avevo visto dal VIP, non ho detto niente infatti. E ha confermato il signore 20 qua a voglia la base. Ai. Cucu cucu paloma. E qua. E per culo qua asciugato? No, ancora no. Gianni, comunque le passi. Una grande soddisfazione. Come si che non si passa più? Io lo so, mi passo un picchio addosso, anche a quel natalino, con cuore. Già che arriva la proprietà, gli vado in base. Come ne prima cosa sarai tu? Hai capito bello bene. E lasciami fare quello che sto facendo. Lo cosa vuoi che vengo lì con la motosega? Che non c'è misura mia. Hai capito bello bene. Carino ha cambiato mai stessa, ma c'è lo spacciatore, non il popone. Spacciatore, è meglio di spacciatore allora. Spacciatore per il Roma. A trutta. Per qua. Spacciatore di mezzo a trutta. Ehi, andare tu. Ehi, Battiso ne approfitta per salutarvi e passarsi il QRT. Causa visione TV. Ok, ciao a tutti, non sto a elencare i nomi perché poi magari dimentico anche qualcuno, è quello che dimentico. Si offende invece, saluto tutti agli amici che sono sul canale 10. Battiso, vi auguro ancora buon piacere, a risentirci alle prossime. Buona serata a tutti, ciao da Battiso. Ciao Bacchi, ci sentiamo, dai. Buona serata e buona visione TV, dai. Avanti Luca, poi fai girare. Ciao Bacchi, mi hai sentito, dai. Alla prossima. Buona serata e buon tutto, dai. Vai a tu. Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossimine. Buona serata e buon tutto, chi c'era? Ciao Bacchi, salutoni, buona proseguo di giornata, ci sentiamo alle prossime. Natali. Ciao Bacchi, alle prossime. Natali, ti offendo male, ma la barba fatta te l'hai. C'è l'altro mi viene, sempre rompendo le scatole, anche tu. Ti viene. Diciamo che ti trovo, ti faccio misurare mia, pittina, pure a te, così impari. Grazie Luca che mi rompe le scatole. Va. Un magone. E ti tiro una bambola. Sai, magone c'è con Antonio. Un magone, sì. Tu sei la carina, magoni. Minita. Non ti chiamo A, non ti chiamo i carabinieri. No, è sei tu che non te lo dice, magone. Attenzione l'amico. Ho capito, amate lo sblatter. Chi è che mi chiama? Luca. Eia. Teresa, hai sentito già il dottor Rum, per caso? È qua. Allora, Gianni, ti sto telefonando con Teresa, puoi rispondere per cortesia al cellulare. Anni. Teresa. Chi mi chiama? Franco. E beh, quella cosa, tutto a posto? Quale cosa? La cosa tua. Boh, non ti capisco, dai, sto andando via che non posso parlare. Mi fai questa cortesia Luca. È l'acqua, Gianni. Squilla ti risponderà sicuramente. Mi. Ah, c'è Teresa, ha detto che risponde al telefono. Ciao. Scusate, ciao Francolino. Ciao, ciao Tere. Fammi sapere, mi. Ma di mamma? Ciao. Ok, dai, ciao. Mi serviva Gianni urgentemente. Sono entrata per quello che ti amavo. Ciao, Tere. Ciao, ciao, ciao, ciao. Vai, Lu. Ciao, ciao, Tere. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vabbè dai, non c'è qua troppo. carino, i watt, ce li hai i watt? I watt sì, ne ho 12 watt. E io ce ne ho 5 watt, ce ho 5 watt. Ma dimmi una cosa tu invece, ma tu la moranza, come hai presa? A nulla. E il flemmo, ma guarda te li hai, te l'hanno mai fatto il flemmo? Io mi ricordo che Pierpaolo l'ha fatto. Sì, Pierpaolo, tu l'hai fatto. Cosa? L'autista. Che cosa? L'ambulanza. Ah, quello sì. Perché noi ci conosciamo da lì. Gava, gava. Anche la Frembo mi hanno fatto, però, come diceva... Il flemmo, perché purtroppo, Fra, sono stato anche dall'altra parte, capito? Purtroppo. Sì, ma aspetta, la pescheteria non siete mai andati voi. La piazza? Pescheteria. Che cavolo è? Questa pescheteria non siete mai andata? Piazza la pescheteria. Sì. Cioè, sempre questa pescheteria, ora c'è più giù di Piazza Tola. E si chiama Piazza Pescheteria? No, fa. Pescheteria? Figlio di buona mamma, raga. L'ho detto io, Piazza Pescheteria. E si chiama Piazza Pescheteria. Ah! Sì. Stavo prendendo in giro, Pierpa. Una massa di delinquenti. Già sei il primo. No, l'ho detto io, Piazza Pescheteria. E voglio dire, ma voi non sapete la vita. È la bicicletteria. Solo che pure è la pescheteria. Già ti ho capito. È la pescheteria. No, dimmi una cosa, ma Barbetta non c'è più, andato se ne. Chi è Barbetta? Tattarino. Tattarino. Già ci sono, già ci sono, che mi sta ascoltando, che sono sempre in agguato, vedete se parlate male di me, tanto lo so che parlate male di me. Aio, cavatene che si ciabatto, dici, aiuto, che... Se dici, mi dici. Le ciabatte, Natali, vai, esci, non rimane dentro casa, chissà tu fai l'ascoltone. Ah, per parlare liberamente, no. No, sto a casa, qui c'ho la, adesso che ho la poltrona di pelle umana, presidenziale, siete rovinati. Bimbula, Ci ha fottito Pierpacca. Volete appena chiudere un attalino, guarda, lo facciamo nero. Ah, sono già nero e mi vuoi fare ancora più nero, Attalino, guarda, sto prendendo un calendario del 2002, ti interessa? E io pure sto mangiando il 75 la Google. Questo è un calendario della Til Grafica. Nuovo, mai usato, la 2002, ti interessa? No, non mi interessa. Sta lì. Ma ne ho vari, la Sisa, Pistoluzzi, poi c'ho un po' Cacchiappi, c'è Gettone Rosso, di un coso, un roba delle mongole, ecco, lo sto prendendo. Quello 5 euro lo sto prendendo, ti interessa? Io porta chiave devo regalare a Antoni, tu me l'ho conservato. Ascolta, sto vendendo un decoder satellitare col succhi andiamo integrato, ma ti interessa? Col succhi? Tu col succhi andiamo, io sto vendendo uno, simile a quello, succhi andiamo con Pinetta. Con la camo succhi andiamo integrata. Vaga. Vendo, compro, scambio, la casma. Poi c'ho, se volete, ho due piastre di registrazione professionale della Technics. Poi c'ho un televisore 21 pollici della Samsung. Poi cosa c'ho? Ne ho uno da 14 pollici della Irradio. Tutti a colori. Aiuto, compro, vendo. Vendo. Masterizzatore CD e anche puoi ascoltarli, li puoi anche ascoltare. Più impianto di casa e tutto. Vendo tutto. Quanto? Lo so, ma non masterizzatore non è masterizzatore per computer, il masterizzatore è quello che si attacca, praticamente si attacca alla cosa dei CD, dell'impianto stereo. Ci metti praticamente il CD originale nell'impianto stereo, mangia CD e te lo registra. Bello, la montata è in mostra in pulpa, chi ce la compra? Guarda Gianni, mi sono arrivati i lettori MP3 da attaccare la CDC, carimi, se ti interessa, con la possibilità di mettere la penna USB, con le MP3, ci metti le canzoni MP3 dentro, sintonizzi la radio e ti ascolti le MP3 tramite la CDC, carimi. In più ha la possibilità di mettere l'SD, la memory card. Vai, noi vediamo un po'. Io stasera già ne ascolto poche, ma che sono stato facendo la radio. Qui è un bel impianto, non è per vantarmi, ma c'è un bel impianto in macchina. C'ho l'MP3, ce l'ho già. L'unica cosa che c'è è che non si può mettere la penna USB. È quella l'unica cosa. C'è problema, non c'è problema già. 30 euro e si fa tutto. Poca la spesa, per quello che fa. Allora, quanto costa? 30 euro a te. Già è bellino. Ma com'è grande? No, è piccolissimo. Lo attacchi al CDC che stai andando. E si sente la radio. Sì, sì, si utilizza la radio la frequenza che ti scegli tu, secondo la frequenza che vuoi. Si sente bene, benissimo. Lo faccio anche sentire se vuoi. Vediamo, dai, tanto già lo sai che io lì ci battico spesso, quindi ci abbiamo il coso, nell'ufficio lì, quindi già ci battico spesso, se capito già me lo faccio vedere, dai. Capo, portati una penna USB o una memory, come vuoi tu, quindi lo proviamo direttamente alla macchina tua. Cosa sono le casse? No, Pierpa, è un apparecchio che praticamente tu attacchi la accendi i sigari, una specie di radiolina piccolina, però cosa c'è la possibilità di, lui c'ha un trasmettitore FM, trasmette, tu sintonizzi la radio, l'autoradio su quella frequenza e lui ti porta col telecomando, tu ti scegli la canzone che vuoi nell'MP3 web, quello che vuoi, che c'è dentro la penna o nella memory, e te la riproduce dentro la radio poi la riproduce nelle casse, no? Ciao, ma no, interessa anche a me. Vieni, te lo provi, non c'è problema. Ciao, ma no, va bene, va bene. Mi sono arrivati venerdì, ma sono arrivati 20, ne ho venduto 18. 18, allora ce ne rimangono due. Campagno 2, uno è mio, vabbè, ma lo vendo, dopo li riordino. No, vabbè, già ci vediamo, no? Caffa, Luca la macchina non ce l'ha. Luca, la CDC che nella moto ce l'hai. Luca. Ma ci vuole anche la radio. Beh, certo. Io me la sto mettendo nella console, mi sto mettendo una radio dentro la console e dopo ci infilo quello. Ma no. Nell'impianto dove quando vado a suonare. Gaba. Vedete, non le può registrare, vero? Così, solo dal computer e basta. Eia. Gaba. Vediamo. Andà bene. Che fa? I terraghi se due. Amiglioriamo. Cosa vuoi migliorare? Beh, se la gira a casa non me ne voglio stare. E fra quanto sarebbe? Fra quanto? Sì, penso un quarto d'ora, 20 minuti se go pronto. No, perché a me era quasi pronto mangiare. Ah? Va bene, dai. Allora mangiamo prima e lo bruciamo. Diciamo intorno alle 8, va bene. Ehi, già va bene. Anche perché devo pigliare le sigarette e uscire per forza. Allora facciamo alle 8, va. Perché io devo Lo so. Idem. Quindi adesso è già meglio, addirittura l'arrivo, intanto non è una cosa veloce, veloce ogni tanto per prendere questa merda pastiglia, no? Cava, mi son chi? Allora vabbè, quando va mangiato vado anche io, tanto già faccio veloce. Cava. Lucca, se parcheggio avanti, così andiamo insieme in piazza Peschetteria. E allora? Buonasera anche a lei. Come mai Girella? Muore, quindi andiamo indietro. Adesso mi sei in macchina. Sarete che si. Cava, no, pensavo che fosse il mezzo lavoro. Andava, e dove si? Ora. Com'è senza bancare un deserto? Non lo so perché, non so solo se sto andando adesso, vediamo un po' di gente in giro. Ma da un po' di macchine in giro ci sono questo di gente, Poi mi manda a cantare che vado sui bancarelli, non vi finisci uno. Hanno fatto il racket lì, hanno arrestato gente, sequestrato bancarelli, di tutto. Adesso quelli lì erano quelli che attiravano la gente a andare a vedere eccetera, poi si fermava lì, si mangiava il gelato e guadagnavano anche i commercianti della zona. Invece così hanno fatto diventare tutto un deserto, E poi a quanto pare Plazzamona appartiene al comune di Sorso. Molte multe, molte cose che facevano, mi sa che siano dovute a Sorso, adesso. Se si appellano, o io. No, vabbè, lì è diviso, sarà rotto la fine alla corretta di comune di Sassari. Se tu guardi alla rotta dove c'era la Guardia Medica, se avanti della Guardia Medica, anzi dall'angolo dove c'era la pizzeria e poi è tutto il comune di Sorso. A quanto so io, al telegiornale avevano detto, in un consiglio comunale che c'era, di Sassari, avevano detto che praticamente sono andati tecnici a controllare, e nel comune di Sorso risulta tutto di Sorso, la rotonda, capito? Tutto nel comune di Sorso, compreso dove ci stanno i vigili di Sassari, la Guardia Medica, eccetera, eccetera. No, quel senso lì io non so che era nel comune di Sorso. Però bisogna vedere, a quanto pare dice che le multe che abbiamo messo erano di appartenenza all'altro comune, non di quello di Sassari. Poi bisogna vedere come siano le cose veramente. E torna di te di viso, uia. E una cosa della sola, se tu. Dici, ma cabare di buca, fare ridere la gente, attirarla. Sono fuori di sentire di attirarla. Oh, yeah. Fabi dava meglio già salito di noi. E chi c'è? È un assago, ma... Beh, è fatto. Quanti... per fa? Però... sono qua, che? Ma di che indecesse? No, stavamo dicendo del comune di... del pezzo di Plattamona, della rotonda, non appartiene al comune di Sorso. Chiama Grava, purtroppo è stato fallito così, da parte di tutta la parte proprio la rotonda appartiene al comune di Sorso. Ma se chi si appellano, tutte le multe che hanno incassato le devono tornare. No, vabbè, niente, non c'è la Guardia di Finanza e quello che è rimane. Ah sì, per quel fatto le bancarelle sì, per quella poi interviene sul territorio, non c'è problema. No, ma dico, per quanto riguarda le multe che hanno messo, per i divieti, eccetera, eccetera. Dunque, a quanto pare, col comune di Sorso sono riuscito a stabilire a fare una voltura, a fare una specie di voltura, perché comunque chi si appella la multa potrebbe essere annullata, ha dichiarato anche il sindaco. Dice non sappiamo ancora in quanti si appelleranno, però chi si appella attualmente, ecco. Però per quanto riguarda l'integrazione della multa, come il socio è giovato perché gli verranno integrate. Sì, sono andato a mangiare, dai. Ci sentiamo fra un po', va, ciao ciao. Ah, anch'io, va. Ciao già, ciao Pierpaolo e ciao Rattalino. Ciao per il bar agricolo. Ci sentiamo più tardi, dai, anch'io vado a cenare, ciao. Sotto negli ascoltoni, ciao. Ehi, io sto andando a mangiare, dai. Ci sentiamo più tardi se coincide domani, ciao ciao. Natali passa a casa, vai. Ciao ciao. Natalino.